cerco la preghiera, la cerco sulla mia pelle, la sera in fondo c'è qualcosa che devo dire a me. Quando penso d'essere solo, immerso tra le iene, con effimere attenzioni, dormirò sogni tranquilli perché il mio peggior nemico veglia. Sarà sempre così.